Buon inizio di settimana, nonostante un lungo ponte, Arden Davy non si è mai fermata, non si ferma, è qua con voi anche per questo nuovo appuntamento del lunedì, replicato poi il mercoledì. Come sempre, la voce è quella di Marco Gravelli, lo sponsor è Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, il nostro autore è sempre Simone, non cambia. Ha preparato anche per questa sera tutte le schede biografiche delle band. Partiamo con gli Wasp, una formazione che suonerà tra pochi giorni, anzi questa settimana sarà il 12 dicembre al New Age Club di Roncade in provincia di Treviso e il 13 dicembre appuntamento per tutti i Metal Kids alla Rainbow di Milano. Durante questo show è stato preannunciato che oltre ai loro classici, in occasione del 15° anniversario della sua pubblicazione, suoneranno per intero l'album The Crimson Idol, che era uscito nel 1992, è arrivato al numero 21 in Inghilterra, 35° in Germania, 31° in Svezia. È considerato un loro capolavoro perché si tratta di un concept album e la line-up di questo album vedeva alla chitarra, al basso e voce Blackie Lawless, seconda chitarra Bob Kulick, alla batteria Frank Banali, ex Quiet Riot, e Stet Holland, che ha lavorato anche per Impelliteri, e Joey Belladonna. I batteristi sono due poiché Frank lasciò gli Wasp durante le registrazioni dell'album. Andiamo ad ascoltare questo brano proprio in apertura da The Crimson Idol. Wasp si intitola The Invisible Boy. I'm The Invisible Boy, un bel inizio dal concept album The Crimson Idol per gli Wasp. Ricordo, 12 dicembre New Age Club di Roncade Treviso, il 13 Rainbow di Milano. Andiamo nel periodo della New Wave British Heavy Metal, dove all'epoca erano molto famosi, arrivano da Newcastle, sono inglesi, quindi heavy metal band chiamata Satan. Il loro primo nucleo risale al 1979, lineup che diviene stabile nell'81. Dopo un paio di demo, nell'83 pubblicano il loro capolavoro, il loro primo album, Court in the Act. Dopo questa pubblicazione cambiano cantante a favore di Lou Taylor e cambiano anche il nome in Blind Fury. Con questo nome pubblicano l'album Out of the Reach, che per quanto bello non soddisfò i fan, poiché il sound era meno potente dell'esordio. Cambiano quindi nuovamente cantante con l'ingresso di Mick Jackson e tornano al vecchio nome Satan, pubblicando un EP, Into the Future, nel 1987, e il secondo album ufficiale, Suspended Sentenced. Nel 1988 la band cambierà di nuovo il nome in Peria e con questo moniker pubblicheranno altri tre album. Ma dal primo loro miglior lavoro, ovvero sia Court in the Act, andiamo a ritrovare proprio il brano che apre l'album, Trial by Fire, Satan. Della New Wave of British Heavy Metal uscì questo primo lavoro dei Satan proveniente da Newcastle Eravamo nel 1983, l'album veniva aperto da questa Trial by Fire, decisamente un'esplosione di metal. L'album si intitola Caught in the Act, per la formazione dei Satan. Ritorniamo a cose più recenti, l'ottima band è quella dei Astral Doors. Ad un solo anno dal precedente Astralism, un paio di mesi fa viene pubblicato questo quarto album, New Revelation, per la formazione svedese degli Astral Doors, che propongono un ottimo heavy metal stile anni 80. Band nata nel 2002 dal chitarrista e batterista. Nella line-up occorre sempre ricordare la presenza del bravo cantante Patrick Johansson, dalla timbrica molto simile a quella di Ronnie James Dio, che prima di entrare negli Astral Doors militava in un'altra progressive metal band, cioè i Lunatic Parade. Ora suona, più che altro canta, anche nei Lion Share e nei danesi Wuthering Heights. Questo New Revelation è stato pubblicato dalla etichetta spagnola Locomotive Records, che li segue sin dall'esordio, ed anche la formazione è sempre la stessa. L'album presenta 11 ottime tracce, gli è valsa la partecipazione al celebre Prog Power Festival di Atlanta, oltre ad un tour da headliner che li ha portati un mese fa in Italia. Il pezzo è quello che apre l'album e dà il titolo allo stesso, New Revelation Astral Doors. New, New Revelation, titolo dell'album e di questo brano che lo apre per gli svedesi Astral Doors. Da un prodotto abbastanza nuovo ad uno decisamente datato, ci spostiamo dalla Svezia alla Danimarca. L'anno scorso hanno celebrato i loro 25 anni di attività e sto parlando dei Pretty Maids, nati nel 1981 dal chitarrista Ken Hammer, il vero nome è Kenneth Hansen. In principio si trattava, come spesso accade, di una cover band, ma ben presto hanno scritto brani loro e dopo diversi demo ed un omonimo EP arrivano alla pubblicazione del primo album, Red Hot and Heavy, e grazie a questo vanno in tour, almeno in Danimarca, con i Black Sabbath. Il secondo lavoro, Future World, ebbe un buon successo in Svezia. Questo fece sì che per il terzo album, Jump the Gun, fu scelto il produttore Roger Glover dei Deep Purple e come special guest alla batteria suonò Ian Pace, sempre naturalmente dei Deep. Nel corso degli anni ci sono stati diversi cambi di line-up, tanto che oggi, che la band è ancora in attività, i membri storici presenti sono il cantante Ronnie Atkins e il fondatore chitarrista Ken Hammer. L'ultimo lavoro è uscito lo scorso anno dal titolo Wake Up to the Real World e hanno anche un nuovo batterista, l'ex Royal Ant, Alan Sciacaia. Andiamo ad ascoltare dal loro primissimo album Red Hot and Heavy un brano che poi è stato coverizzato anche dagli Hammerfall. Il pezzo si intitola Back to Back. Questi sono i Pretty Maids. Yeah. dal loro primo album dalla Danimarca, la formazione è quella dei Pretty Maids, Red Hot and Heavy. Questa era Back to Back, il motivo che abbiamo ritrovato. Andiamo ad una band che ci porta a parlare dello speed metal. I fondatori dello speed metal arrivano da Ottawa, Canada. Sono appunto loro considerati i padri di questo genere di musica, di questa etichetta musicale che si è voluta dare. Si chiamano Exciter, nascono nel 78 con il nome di Hellraiser, cambiato nell'80 in Exciter, ispirandosi alla famosa canzone dall'album Killing Machine dei Judas Priest. L'esordio arriva nell'83 con l'album Heavy Metal Maniac, considerato un caposaldo dello speed thrash, dato che è proprio grazie a questo lavoro che viene coniato il termine speed. Successo che prosegue con il secondo, Violence and Force dell'84, e con il terzo, Long Live the Load del 1985, tanto che suonarono sia in America che in Europa con Anthrax, Mercyful Fate, Megadeth ed Accept. Successivamente il chitarrista John Ritchie, che oggi è l'unico membro storico presente, lascia il gruppo e con un nuovo chitarrista esce il quarto lavoro. In occasione del quinto omonimo album dell'88, la lineup viene estesa a quattro elementi con l'ingresso di un nuovo cantante. Dopo due anni la band si scioglie. Nel 1991 il chitarrista Rich e il batterista Beheller ricreano la band a tre elementi con un nuovo bassista e tornano sul mercato nel 1992 con Kill After Kill, ma un anno dopo si sciolgono nuovamente. Siamo al 1996 con la band che ritorna con un nuovo bassista, batterista e soprattutto cantante, cioè Jacques Bellanger, che canterà anche nei successivi lavori per lasciare il gruppo nella primavera del 2006. Il suo posto attualmente è stato preso da Kenny Winter, insieme al quale hanno registrato un nuovo album che si intitola Thrash Speed Burn. Era previsto la pubblicazione per il 9 novembre di quest'anno, ma è stato posticipato il tutto al 22 febbraio del 2008. Dal loro primo album, l'importantissimo Heavy Metal Maniac, andiamo ad ascoltare la canzone omonima Heavy Metal Maniac Exciter. Heavy, heavy, heavy, yeah. I'm a heavy, heavy. Heavy Metal Maniac, qualcuno se la ricorderà, è questa canzone degli Exciter. E andiamo a chiudere la nostra prima parte con una band che in Italia in questi giorni sarà a Milano il 12 al Music Drum. Sto parlando degli svedesi Alcohol Superstar, avremo modo anche di intervistarli e poi vi proporremo l'intervista. Li andiamo ad ascoltare con Silence in Peaceful, dal loro nuovo Dreaming in a Cascade, Hardcore Superstar. Do it. si intitola Burn, il brano con il quale abbiamo aperto la seconda parte, quella dedicata, e lo capirete anche voi, alle novità. La prima, come sempre, largo spazio, vede largo spazio al sound del passato con band hard rock e band heavy metal. Ne abbiamo avuto un esempio quest'oggi con gli Wasp, ad esempio con Exciter, eccetera, eccetera. Abbiamo lasciato e chiuso la prima parte con gli svedesi Hardcore Superstar, protagonisti questa settimana dal vivo in Italia, e questi erano invece i canadesi Random Damage, che dopo ben 11 anni, visto che il gruppo nasce nel 94, l'esordio arriva nel 96, arrivano con questo secondo album. È una heavy metal band appunto canadese creata dal batterista Ray Hartman, che ha militato per tantissimi anni nella band degli Annihilator. Questo album esce addirittura con una limited edition, con un bonus CD di 5 tracce, che è l'EP solista del chitarrista della band. Abbiamo ascoltato il brano Burn. Andiamo invece alla formazione tedesca degli Axis, che hanno suonato 2 settimane fa in Italia di supporto a Halloween e Gamma Ray. Loro arrivano dalla Germania, l'esordio arriva nel 1989 con l'ottimo album Kingdom of the Night. Nel corso degli anni hanno subito diversi cambi di line-up, tanto che l'unico membro storico è il cantante Bernard Weiss. In tema di formazione, rispetto al precedente, c'è cambio il chitarrista, mentre alla batteria è stato confermato André Ilgers, che milita da alcuni mesi anche nei connazionali Rage. Questo nuovo lavoro si intitola Doom of Destiny, è stato mixato dal celebre Dennis Ward dei Pink Cream 69, e da quest'album andiamo ad ascoltare le note di Devilish Bell. Sono gli Axis. We'll be right back. l'ultimo loro album presentato in parte qua a Milano come supporter a Halloween Gamma Ray, la formazione degli Axis, che cede il passo all'appuntamento con le Metal News. La formazione italiana degli Elven King hanno ufficializzato il fatto che per problemi organizzativi che non dipendono da loro non supporteranno i Gotthard nelle quattro date italiane che vanno dal 10 al 15 di dicembre. La formazione dei Time Majesty ha cambiato il tastierista e inoltre anche cambio di etichetta, si sono accasati ad una nuova etichetta olandese, continua anche la realizzazione del loro prossimo album in studio. Il Gods of Metal prevede la partecipazione, come anticipato nelle passate news, una reunion dei Carcass, sebbene anche loro saranno presenti in una delle giornate della prossima edizione del Gods of Metal. Parliamo dei Journey, che hanno trovato il nuovo cantante. Si chiama Arnel Pineda, proviene dalle Filippine, da Quezon City, e militava nei The Zoo. Arnel è stato scoperto direttamente dal chitarrista dei Journey, Neil Sean, che, cercando appunto un cantante nuovo nella scena musicale, ha trovato su YouTube un video che vedeva proprio Arnel interpretare un pezzo dei Journey, cioè Faithfully, e da lì l'ha contattato e ne è nata la collaborazione. La band sta attualmente lavorando al prossimo nuovo album, il produttore è Kevin Shirley, e si parla della pubblicazione in primavera-estate del 2008. Sarà disponibile all'inizio del prossimo anno il video del nuovo singolo Forsaken per i Dream Theater dall'ultimo album. E sarà un video animato dove i protagonisti saranno due, Leo ed Alice. Michael Schenker uscirà il prossimo aprile il nuovo album, si intitola In the Mist of Beauty, per la band del chitarrista tedesco. La formazione è composta da Gary Barden alla voce, Don Airey alle tastiere, Neil Murray al basso, Simon Phillips alla batteria. Parliamo invece di John Land. Tra un'apparizione come special guest e l'altra, il bravissimo cantante norvegese sta terminando il suo nuovo album. Attualmente si trova in fase di mixaggio presso i Jailhouse Studios in Danimarca con il produttore Tommy Hansen. La pubblicazione è prevista per marzo del prossimo anno e si parla anche di un tour in Europa. Tra le recenti e numerose partecipazioni di Land, ricordiamo quella dei progetti Avantasia, Aireon, entrambi i lavori usciranno a fine del gennaio del 2008, e anche all'ultimo album solista dell'ex tastierista degli Uriah Heep, Ken Hensley, che si intitola Blood on the Highway, uscito nel mese di luglio, e lui partecipa, lo andiamo ad ascoltare proprio con il brano che apre l'album, si intitola Just the Beginning. Send them 10 times round the block just to add a little mystery. Give me radio with balls, someone to help us fill the halls, and we can grab ourselves a piece of rock and roll history. Oh, fate and destiny have been guided. We're going in, it's all been decided. This is the dream I had from the beginning. I'll bet it all and only think of winning. I can run this race, I'm not afraid of losing face. I can take the strain, la Just the Beginning con John Land alla voce. C'è anche John Lawton, Glenn Hughes e altri special guest in questo album di Ken Hensley che si intitola Blood on the Highway, uscito nella scorsa estate e che oggi abbiamo ritrovato, riascoltato, visto che abbiamo parlato proprio di John Land. Un'altra band che arriva dalla Svezia è un nuovo progetto, si chiamano R.I.I.R. Rear, creati dal chitarrista Lars Chris e dal bassista tastierista Sampo Alexson, entrambi dei Lionshare. Questo progetto nasce nel 2005, quando entrambi decisero di scrivere della musica differente da quella proposta con la band dei Lionshare. E nasce questo progetto dove in line-up troviamo anche la batteria, il session man Thomas Broman e soprattutto la voce Matti Alfonsetti. Registrano così le canzoni, ottengono un contratto con l'etichetta AOR Heaven, che ne ha pubblicato in questo periodo il loro album d'esordio, che si intitola Road to Ruin, dal quale oggi andiamo a proporre le note di Walk the Line. intitola Walk the Line dall'album d'esordio Road to Ruin per questo progetto dei due componenti dei Lion's Share, progetto chiamato Rear. Andiamo invece alla prossima band, qui andiamo in America, è un gruppo che propone thrash metal, sono in quattro, si chiamano Demiricius, nati alla fine del 2001, grazie a un EP del 2005 ottengono un contratto con la Metal Blade, questo è il nome dell'etichetta. Così nel 2006 è uscito il loro album d'esordio, si intitola 1, 2 punti Hellbound, cioè One Hellbound, che gli valse un tour di spalla agli IMSA. Con quell'album erano stati definiti come cloni degli Slayer. Sempre tramite Metal Blade è arrivato questo secondo album che si intitola 2 Poverty, quindi 2 Poverty, e si compone di 12 tracce molto potenti, come la prima, quella che apre l'album che andiamo ad ascoltare, Never Enough Road per i Demiricius. D'apertura dal loro secondo album intitolato To Poverty, Demiricius con Never Enough Road. Ricordando che tutti i programmi e gli appuntamenti di Hard and Heavy li potete riascoltare quando volete, quando vi piace, negli orari che più sono consoni a voi, tramite un collegamento semplice al nostro sito www.radiorockfm.com. Cliccate su archivio programmi, trovate Hard and Heavy. E allora chiudiamo l'appuntamento di questa sera, il primo della settimana, terzo con la replica, con Ted Nugent. Questa settimana compirà 59 anni il celebre chitarrista cantante americano che ebbe un gran successo con il suo sound hard rock alla fine degli anni 70. Due settimane fa l'abbiamo presentato in Hard and Heavy Live del venerdì con il suo bellissimo doppio live Gonzo. La sua carriera comincia da solista dopo la band degli Amboy Dukes nel 75 con l'album d'esordio che conquistò il doppio disco di platino, più di 2 milioni di copie vendute in America. Successo che ha migliorato sempre di più con il successivo Free For All del 76, anche lui doppio disco di platino e tour di spalla ai Black Sabbath. Il suo album più famoso è considerato anche il migliore, cioè il terzo, Cat Scratch Fever, triplo disco di platino. Seguiranno altri album, da segnalare anche la partecipazione al supergruppo Damn Yankees con Tommy Shaw degli Styx e Jack Blades dei Night Ranger, con i quali ha inciso due ottimi album. a 5 anni dall'ultimo lavoro in studio, è uscito questa settimana, anzi questa qualche settimana fa, Love Grenade, nuovo album composto da 13 canzoni, presenti come special guest in 3 brani il bassista Jack Blades. Io ringrazio quindi il nostro sponsor Mariposa Dischi, ringrazio Simone, il nostro autore, voi che mi avete seguito, e vi lascio con un estratto dal nuovo lavoro Love Grenade di Ted Nugent, si intitola Still Raising Hell.